Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Emettono pochissima CO2, ma purtroppo molti inquinanti, tra cui le famigerate polveri sottili. Parliamo di caldaie, stufe a pellet e in generale a biomassa. Ieri abbiamo visto che i produttori di questi apparati si sono organizzati per mettere a punto un sistema di certificazione che consenta ai consumatori di riconoscere gli apparecchi meno inquinanti. Ma anche questi ultimi comunque inquinano parecchio, eppure le ben più grandi centrali a biomassa, grazie a filtri e a varie tecnologie di abbattimento, hanno emissioni estremamente ridotte. Allora ci domandiamo, è possibile puntare a risultati analoghi anche con apparecchi ben più piccoli, come appunto stufe e caldaie che potremmo ospitare in un salotto? Per parlarcene è tornato a trovarci Walter Francescato, direttore tecnico di AIEL, l'associazione che riunisce i produttori di questi apparati. Buonasera e bentornato Francescato. Buonasera Melis. Allora, quali possono essere delle tecnologie che ci consentono di ridurre le emissioni dovute alla combustione di biomassa in apparati abbastanza piccoli, come appunto le stufe a pellet che vanno a casa delle persone, o le caldaie che scaldano case o magari condomini? Sì, diciamo che per quanto riguarda le stufe, quindi i generatori di più piccola taglia, c'è ancora molto, diciamo, potenziale di miglioramento sulle cosiddette misure primarie, quindi migliorare il processo di combustione attraverso appunto regolazioni dei sistemi d'aria, le geometrie delle camere di combustione e così via. Qui abbiamo un potenziale stimato intorno al 50% per quanto riguarda le polveri e l'80% per quanto riguarda il carbonio organico. Mentre per quanto concerne le caldaie, ecco, qui ci sono alcune, diciamo, innovazioni tecnologiche molto importanti. La prima riguarda un'estremizzazione della separazione delle fasi della combustione, quindi significa sostanzialmente bruciare il syngas prodotto dalle degradazioni pirolitiche. Ecco, ok, allora spieghiamola bene, diciamo che abbiamo della biomassa, la biomassa può essere, si dice, gassificata. Sì. Sostanzialmente che cosa si fa? Si scalda senza ossigeno, è così? Esattamente. E cosa succede alla biomassa a quel punto? Quindi si, diciamo, liberano dei gas di legno, chiamato appunto in gergo syngas. Questo syngas viene spostato in un post combustore, una zona di post combustione, e viene acceso sostanzialmente. Come se fosse del metano, del gas naturale praticamente a quel punto, no? Molto simile, ecco. Esattamente. Quindi diciamo che una frazione della biomassa viene trasformata in un gas, e i gas quando bruciano praticamente non producono particolato, producono pochissimi inquinanti. Poi rimane però una parte solida comunque, giusto? No, rimane della cenere. Ah, direttamente. Appunto, sì, nella fase, diciamo, di pirolisi si va fino anche sostanzialmente all'esaurimento il carbone di legno e la produzione di cenere. Quindi sistemi di questo genere che gassificano il legno prima di bruciarlo potrebbero andare a bordo di caldaie, magari non della stufa pellet, ma di una caldaia, sì, di medie dimensioni. Diciamo, esistono già caldaie che si stanno sviluppando in questo senso e che sono, diciamo, o sul mercato o vicine ad essere commercializzate. Ecco, senta, invece è realistica l'adozione di filtri veri e propri, come appunto si fa sugli impianti più grandi, le centrali a biomassa? Per quanto riguarda le stufe, anche qui esistono, diciamo, delle attività di ricerca e sviluppo molto promettenti, però mi sento di dire che in questo momento i filtri non sono la soluzione per i piccoli generatori. Perché costano troppo, sono troppo complicati. Costano quanto la stufa, o sbaglio? Il costo è uno dei problemi. Il secondo problema è la manutenzione di questi, diciamo, sistemi, e quindi chiaramente legato anche a dei costi, appunto, di manutenzione elevati. Mentre per quanto riguarda le caldaie automatiche, quindi a pellet o a cippato, da 20 kW in su esistono già delle applicazioni di filtri elettrostatici piccoli integrati nel corpo caldaia, quindi questo, diciamo, è un'altra soluzione tecnologica che il settore sta sviluppando, ed esistono già dei modelli di caldaie che hanno questa, diciamo, questo tipo di tecnologia incorporata appunto nella caldaia per ridurre molto le emissioni di particolato. Ecco, ci ricordi velocemente che cos'è un filtro elettrostatico, che poi non è una cosa così complicata? Allora, un filtro elettrostatico è un dispositivo all'interno del quale, diciamo, passano appunto i fumi caldi della combustione. si crea un campo elettrico che carica appunto elettrostaticamente le particelle, il particolato che viene appunto diciamo poi attirato dalle pareti del sistema filtrante e quindi diciamo avviene, rimane bloccato lì. C'è un vecchio giochino che si faceva una volta, no? Per esempio con un abiero di plastica, uno la strofina su una maglietta di lana e vede che attira dei pezzettini di carta. Esattamente la stessa cosa sostanzialmente, no? Queste particelle sono cariche elettrostaticamente, quindi se gli si mette un campo elettrico le attira e le rimuove. Va bene, grazie Francescato. Grazie a lei Melis, buona serata.